Sul perché la risposta è molto semplice. Quando vediamo la possibilità di vedere a colori ci permette di riconoscere gli oggetti con molta maggior facilità rispetto alla visione in bianco e nero. Basta pensare che cosa succede quando facciamo una foto della stessa immagine, con la stessa, della stessa scena e con la stessa definizione in bianco e nero oppure a colori. Gli oggetti li distinguiamo molto meglio nella foto a colori. Se passiamo davanti ad un arcobaleno, facciamo una foto a colori e una in bianco e nero, nella foto a colori vediamo le strisce, le zone di colore molto chiaramente, se facciamo la foto in bianco e nero vediamo un alone chiaro e nulla di più. Quindi l'obiettivo, diciamo, da un punto di vista adattativo della visione colorata è esattamente questo, per migliorare la nostra interazione col mondo esterno.